C'è una voce nella notte che mi parla piano come se conoscesse già le strade che non ho mai avuto il coraggio di vedere. Un sax lontano fa l'amore con le ombre sul muro di un bar, mentre un vecchio sogna ancora di partire senza dire se tornerà. E Napoli ride in coppe scale, ma o cuore mio non tene pace, che sta città è nu blues senza fine, che scarpe rotte o cielo a pezze. Tengo mare rinde vene e una luna che m'accarezza, ma quando parte sta malingonia non c'è sta medicina che me passa. Tra il mare e la luna ci sei tu che cammini nei miei sogni senza scarpe e mi chiedi dove vai. Se la strada è sempre uguale, non finisce mai. Tra il mare e la luna ci sto anch'io, che inciampo nei ricordi e poi li canto, come se bastasse un po' d'amore a far volare via tutto il dolore. E ho scritto lettere al silenzio, ma lui non mi ha mai risposto. E si campa cu stu viendo in faccia, senza sapere se è libertà o paura. Tra il mare e la luna ci sei tu, che balli con le stelle senza tempo. E è solo un attimo che passa e va. Tra il mare e la luna resto qui a cantare con la voce che mi hai dato. E se domani non ci sarai, canterò più forte per trovarti ancora. Sei tu che balli con le stelle senza tempo e mi dici vivi mo, che la vita è solo un attimo che passa e va. Tra il mare